fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per raccontarsi e per raccontare, benvenuti a Resto Radio Convento, io sono Master Nick, buonasera, buonasera a tutti, ma soprattutto buonasera ai miei compagni di viaggio, guardate come sono social in questo momento, guardate perché sicuramente ci state o ci starete vedendo sul nostro canale YouTube, siamo in diretta e soprattutto direi di parlare del momento clou di questa intervista, lei, la nostra protagonista che la abbiamo già rubato alle amiche. Come dei veri galantuomini, rubato alle amiche. Non voleva neanche entrare. No, no, esatto. Un po' Sailor Moon, un po' la fata di scopriremo cosa. Ce lo dici tu? Ce lo dici tu. Dai, ciao, chi sei? Ciao, sono Laura. Laura, oh, applauso. Laura, Laura. E attenzione, Laura, non voglio rubarti subito la scena, ma per dimostrare la potenza della nostra ironia, la nostra risposta a ciao, sono Laura, qual è stata, Alex Angioletti? Laura non c'è. È andata via, Laura non è più cosa mia. E invece c'è, c'è. Quindi abbiamo sfatato il mito, Che stasera non festeggia la prima comunione, no? Davvero? No, fermi tutti. Allora, è entrata dicendo io festeggio la prima comunione. No. Quindi, no, se non festeggia la comunione va fuori. E ha già chiesto il cachet. Va fuori, perché noi esigiamo, cioè da contratto noi dobbiamo intervistare una persona che festeggi la prima comunione come prima intervista alla serata. Okay. Quindi cosa festeggi? La prima comunione. Oh! Prima comunione. Benvenuta, Laura. L'ha detto senza chiedere l'aiuto delle amiche. Esatto. Sì, però mi piace quando gli ospiti sono così naturali e proporsi e spontanei. Bello, sì, bello, sì. Veramente bello. Stasera vende qualcosa, Laura, ho saputo. Beh, intanto sappiamo da dove vieni intanto. Da Arcole, sì. Provincia di Verona. E soprattutto visto che siamo molto vicini alle elezioni Arcole con la L. Ecco perché non mettiamoci R di troppo, che sennò sembra che stiamo diando indicazioni di voto. Arrivano dalle. Esatto, da e ci fanno chiudere. Da lì. Allora, vai, diceva il nostro Alex Angioletti che c'hai qualcosa da vendere. Che si fa le lampade. Ah, sì, anche. Questa sera mi dedico nella vendita di patate. Ma dai, cosa sei, coltivatrice diretta? Che tipo di patate? Scusa. Al forno? Patate che si possono utilizzare in tutti i modi. Ne hai? Al forno. Ne hai qui? No, sono là dalle mie amiche. Sì, ma allora amiche, dove sono ste patate? Fatemi vedere questa patata. Ehi, dubito che ti allarghi così. Sono le cassette. Ah, ok, ok, allora. Sono entrata sprovvista. Ok. Ma c'è la tua almeno patata, scusa. Ce lo stanno chiedendo gli amici. Allora, con la mutandina. Caro DJ Carlone, spero concorderai in questo, che sei un professionista di questo, visto che approfittiamo del microfono, direi di farle subito la prova a Giorgio Mastrotta. Cosa dici? Vogliamo farla subito così? Sì, ci sta. La prova Giorgio Mastrotta. Visto che sono d'accordo. Portale, quindi visto portiamole in studio. Applauso alle patate. Le patate che stanno entrando in studio. Basta chiedere. Sembra Sanremo. Basta chiedere. Fantastico. Ragazzi, che siete a casa, questi qua non sono kiwi. Ma intanto mostra al nostro pubblico che è tutto vero. Grazie. E io intanto ti spiego in cosa consiste la prova Giorgio Mastrotta. Sì. Visto... Lei è spaventata, è sbiancata. Sì, è un pochino. Dicevo, visto che per tutta sera dovrai occuparti della vendita di patate, noi ti diamo la possibilità di fare una prova, tra virgolette, una sorta di test zero, prima di affrontare il nostro pubblico qui in radio, provando a vendere i nostri ascoltatori. Pubblico variopinto. Sì, variopinto. Anche la bacchetta che magari puoi usare la bacchetta, puoi usare armi di vario genere, nel senso. Ma questa funziona benissimo. Esatto, puoi essere. Per gli amici a casa. È una bacchetta magica. Vuoi dire? Una bacchetta magica che trasforma le patate in qualcosa di. Mamma mia, non vedo già l'ora di sentirla. Allora vai con la prova Giorgio Mastrotta, la nostra sposa. Vai. Cari telespettatori, questa sera solo per voi patate. Scusa, quanto a chilo? Offerta straordinaria, offerta libera e in cambio c'è un delizioso omaggio, caramelle alla liquirizia o alla frutta. Mamma mia! Ragazzi, non c'è veramente la... Telefonate, i primi 100 regaliamo Laura. Allora, esatto. Io, guarda, è stata così convincente che nemmeno ricordo quello che ha detto perché stavo cercando i soldi nelle mie tasche da darle subito. Che ovviamente non abbiamo. Che ovviamente non ho. La lascio in omaggio anche a voi, eh. No, che bello. Poi quando fanno gli omaggi così io rabbrividisco. Senti, la numero uno, secondo me, porta via il lavoro a Mastrotta. Come si chiama il tuo fortunato? Emanuele. Sì, che poi... ma che ci interessa il tuo mondo? No, va bene, cioè, è giusto, cazzo, cioè, poverino, cioè, cioè, sì. è qui come qui? È qui che dove? Gira anche lui, come qui? No, mi sa, esatto, loro sono fanno una doppietta, sì, celibato e nubilato insieme, due per uno. Sì, mi sa di sì. C'è Emanuele in giro? C'è Emanuele. No, quello siamo tutti Emanuele, non quello, non quello. Anche lei lo sa, cioè la sorella, no, la sorella è quella. Com'è tuo fratello? La sorella chi è? Quella che ride? Quella che ride? Quella con il cellulare ma in mano. Ma tuo fratello ce l'ha piccolo? Ce l'ha. No, no. Ah sì, ha detto di sì, hai visto che ce l'ha piccolo. No, il conto in banca. Sai che dobbiamo fare la domanda a tutte domanda le sposi. Domanda di rito, è tua, è tua. Noi facciamo questa domanda a tutte. A tutte. Allora, tutti sposi per amore, per soldi o centimetri? Amore. Ma non c'è. Ma allora. Ma dai, ma per subito. Favore. Sì, la ma per dietro. Favore. Niente, ridacci le patate. No. Non ci crediamo, sì. Dai, qualche centimetro, dai, poi anche. Allora ci dobbiamo credere. No, non so, non so ancora. Come non so ancora? Laura, vedi, non lo può far credere. Vedi a fare sempre i reality con la Busso, come diventata bugiarda. Mamma mia. Non ci credo. Anzi, a proposito di reality, esiste davvero questo Emanuele, non è un altro Marche Caltagirone. Eccolo qui Emanuele. Non è lui. Quindi dovete annullare le nozze per aumentare l'audience. No, secondo me è per farci offrire la cena stasera. Sì, sicuro. È per quello che ha inventato le nozze, per farci offrire la cena stasera. Senti, dove va il viaggio di nozze? Creta, che è dietro. Ah, sì, ma è ripristinata la Creta, no? Ma. Perché gira, Non è. Perché noi. Grande, bravo. No, perché noi devi sapere, anche qui purtroppo che è un caso ancora il nostro DJ Carlone, perché è lui il mentore di questo progetto, che noi siamo anche anche un po' agenzia viaggi, e quindi aiutiamo e consigliamo gli sposi. Ma mandiamo le persone a quel paese. No, no, non solo quello, dicevo, aiutiamo e sponsorizziamo alcune località a spese nostre, che abbiamo provato noi di nostra iniziativa, per mandare gli sposi in viaggio di notte. Quindi ti diciamo che Creta è assolutamente out come destinazione, assolutamente fuori. Perché? DJ Carlone, sulla nostra lista, diglielo. Una crociera sul Micio con le pantegane. Perché? Perché lo buttiamo via una settimana bianca all'Isola d'Elba? Giusto. Facciamo? Giusto. E più segna. Vogliamo rovinare? Oppure roviniamoci. Vuoi rovinare? Casa termo riscaldata sull'Etna. Prendela subito, perché sennò va a fuoco. No. Questa però la vanno d'accordo di non dirla ai microfoni, perché l'hai tirata fuori? Perché? Vabbè che è un ospite speciale. Però già che ci siamo, le regaliamo anche le pentole di Mastrotta. No! Cucinare le patate. Centimetri di fondo, anche aderenti. Ragazzi, hai dato un messaggio. Ragazzi, non ci hanno ancora pagato, non possiamo essere così generosi. Dobbiamo cominciare a sponsorizzare anche noi, no? Certo. Mamma mia, ci stiamo rovinando, però rovinando. Cioè, noi facendo un po' i cazzi nostri così, però non l'abbiamo chiesto quando si sposa. Giusto? Bravo. Perché? Sì, perché? 15 giugno ad Arcole, per amore. Ha riassunto. Ma i tuoi genitori lo sanno? Sì, certo. Tua sorella lo sa? Mia sorella lo sa, ma si è opposta. Sì, ha allargato la... Ah, si è opposta addirittura, come mai? Cos'è? Tipo i bravi dei Promessi Sposi. Di solito è contento e dice, bello, tutta la camera in mezzo. Esatto, bravo. Posso mettere il fidanzato dalla finestra? No, è perché sta talmente bene con me a casa, che vorrebbe tenermi sempre a casa. Certo, sì, a cucinare. Brava, come schiavo, come perché schiava. Questa ragazza è campionessa di corso di cucito. Ah, però hai visto? Bravo. Hai visto che roba? C'è stato detto. Attenzione, loro non capisco perché continuano a passare la testa. Sembra che prenda meglio quando si abbassa. Sì, esatto. Perché gli amici a casa non lo vedono, ma fuori da questa vetrina c'è veramente lo show. C'è lo show di due ragazze in piega, con il telefonino in piega, perché in questo momento sembra che non ci ascoltino. Ragazzi, ma che siete in piega, ci state ascoltando. No, però ancora tu non, cioè, ancora video tu non, arde, ancora arde. Tu non l'hai capito, perché tu sei troppo ottimista. Tu credi che ci stanno ascoltando, ma in realtà si stanno chiamando tra loro. Sì, esatto, stanno autoconversando. Guarda, perché non riescono a chiacchierare una un centimetro con l'altra. No, si devono comunque chiamare. E speriamo che a nessuna scappi la pipì, perché sennò se ne vanno tutte. Infatti, cosa c'è scritto nella magliettina? Sì. Avevamo detto di prendere un mojito, non un marito. Ecco, brave. Brave. Prima di congedarla. Sì. Hai fatto congelarla? Qualche richiesta strana come regalo di nozze? No. La busta. La busta. La 2 o 3. Esatto. La busta. Tetto minimo? 200 euro. Hai bisogno della cucina? No. Di tutto. Tutto. Vabbè, grazie, parte bene. Siate generose. Buste belle, grosse. No, scusa, non è che devono essere solo grosse, anche piene magari, perché se sono grosse e vuote non vanno lontano. Tangentopoli a gogo, bustarella a gogo. La settimana scorsa aveva preso delle buste, ma metà erano vuote. Esatto. Cioè, erano grosse. Poi erano piene o niente? No, erano quelle, sai, quelle postali gialle, no? Quelle grosse, no? Tipo a tre come formato. Quelle mezze truffe. Esatto. E invece però c'era solo la confezione, diciamo così, dentro erano nuove. Vanity. Non c'è arrivato l'ora. No, o piene di soldi o niente. Vanity, a casa tutti. Quindi sappiamo già che lei non si sposa per soldi. No. Se vuole i soldi. Bravo. Fare, andiamo per esclusione. C'è il dubbio dei centimetri. Che questo mi fa. E al telefono sta conversando con Emanuela. No, lei sta conversando direttamente col vetro. Lei parla. Dai una pulitina, visto che già ci sei. Quella ragazza l'ho vista ad Amsterdam. Mamma mia. Sì? Senti, ma una tua amica non ci può mandare un messaggio bello che lo leggiamo in diretta? Yeah, ecco, mandate un messaggio. Vai, messaggio. Ma che? Ma quella telefonazia? Numero, dov'è? Sì. Non numero, non me lo ricordo. Come si chiama la ragazza su 342-58-79999. Non è social, non è social. È su Facebook, sì. Laura. Pista. Tanto non state fra di noi, fra sì, assolutamente. Sono molto unite quelle ragazze là, mi piace. Siete molto unite. Perché sono con la Inter. Ah, ok. Bene, adesso dai, riceveremo un bellissimo messaggio per te, poi lo leggeremo magari durante l'edicomania. Dobbiamo ricordare a lei che c'è Instagram, prima di partire. Dimmi un tag delle amiche. Non so. Dimmi un tag, per favore. Chiocciola. Come si chiama? Ciao, devono anche guardare come si chiamano. Finiamo dopo domani. Allora, io direi che siamo arrivati alla frutta. No? Ah, perché abbiamo, cioè, io l'antipasto non l'ho visto però. Non l'abbiamo visto perché lei è arrivata qua a mani vuote. Ho visto solo patate. Solo patate, ma che sono patate in vendita e non ce ne lasci neanche una. Assolutamente sì. Che succede? Sì, ma quella è la home, abbiamo bisogno del tuo profilo. Abbiamo bisogno del tuo profilo. Abbiamo l'ospite. Ok, adesso allora arriviamo. E vuoi dire qualcosa? Facciamo gli auguri. Facciamole mandare un messaggio finale. Dai, vai. Un in bocca al lupo. Grazie a tutte le mie amiche che mi hanno fatto passare una giornata bellissima. Aspetta che deve avere ancora la fine. Esatto, perché ancora deve diventare nottata. Sì. Allora, noi ringraziamo te, ringraziamo loro per avercela portata qui e per aver avuto parecchie malattie nello stare al telefono 200 ore. Non fatelo più, è giusto, non fatelo più. E soprattutto, auguri alla nostra futura sposa! Saluto il futuro sposo che ho incontrato oggi. Ah, non è Emanuele? No, non è ancora Emanuele. Non è ancora Emanuele. Anche perché. Ok. Grazie mille. Alla prossima. Buona vendita. Vendo.